Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Brutte notizie per gli italiani. Siamo il popolo più longevo d'Europa. Ma non ditelo al ministro Fornero. E dunque Dario Ceccarelli con il suo graffio dedicato evidentemente alle pensioni ad aprire questo appuntamento di Punto e a Capo. Un saluto da parte di Gigi Donelli, da parte di Pietro Laccorte in regia. Oggi naturalmente facciamo il punto come di consueto con quello che abbiamo raccontato, sentito, raccolto nel corso della settimana, una parte naturalmente delle notizie, e dunque ripartiremo tra qualche momento dalla manovra e anche dalle situazioni complesse all'interno del Parlamento, ma anche dalla tragedia, dalla strage del razzismo compiuta a Firenze. Poi abbiamo anche spazio invece per delle buone notizie. Una di queste sicuramente è la liberazione dopo quattro mesi di prigionia in Darfur, Sudan, del collaboratore, del volontario di Emergency, Francesco Azzarà. Punto e a capo. La natura strutturale degli interventi, l'equilibrio qualitativo dell'azione intrapresa, gli elementi che a me sembrano numerosi e durevoli di equità distributiva anche tra le generazioni, che abbiamo introdotto pur nel contesto di estrema urgenza e di grave emergenza economica. Mario Monti dunque protagonista di questa settimana in cui ha ripetuto gli interventi, le spiegazioni, le limature su quelli che sono stati considerati i punti più critici del suo pacchetto, della sua manovra, e poi ha portato al voto di ieri sera. Naturalmente non è che sia finita, anzi è una tappa di un percorso, ma cominciamo allora a sentire con Vincenzo Miglietta che cos'è accaduto e come si è conclusa la giornata di ieri. È un Mario Monti soddisfatto quello che a tarda sera lascia la Camera dopo aver incassato il via libera di Montecitorio alla manovra. Il testo passa ora al Senato. Oltre 400 i sì al decreto, nonostante la pattuglia dei no si sia allargata e comprenda Lega, Italia dei Valori e minoranze linguistiche. Oltre 130 poi i deputati assenti, di questi 70 del Popolo della Libertà. Il professore lo ricorda comunque in aula: senza questo provvedimento sarebbero a rischio i risparmi degli italiani, ma sono convinto, aggiunge il Premier, che il nostro Paese ce la farà. Un'Italia con i conti pubblici in ordine farà sentire con forza la sua voce in Europa. Monti non fa sconti a nessuno e replica con determinazione Berlusconi, che lo aveva definito disperato. Non c'è nessun motivo di disperazione, credo, non per quanto mi riguarda, ma molto più importante per quanto riguarda le nostre istituzioni politiche, civili e per quanto riguarda il nostro paese. È un appello all'unità quello che Monti rivolge agli italiani per avere, spiega, credibilità di fronte ai mercati grazie alle riforme strutturali, e nel pacchetto sottolinea c'è molto di strutturale. Poi uno sguardo al futuro: andremo avanti, dice Monti, con le liberalizzazioni, e in arrivo annuncia la riforma del lavoro. Unica nota negativa del passaggio parlamentare per il governo, l'approvazione, nonostante il parere contrario di Palazzo Chigi, dell'ordine del giorno a firma Lega sull'IMU, sulla prima casa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vi ho detto che è stata complessa anche la situazione all'interno del Parlamento, e lo stesso Vincenzo Miglietta ieri in tarda mattinata aveva raccolto alcune voci che ci danno chiaramente il tono che ha dominato l'aula. Dichiarazioni di voto intanto questa mattina decisamente agitate, con un duro scontro tra Partito Democratico e Lega. Per il PD è intervenuto il capogruppo Franceschini, che ha rinfacciato al Carroccio di aver avuto per anni, quando era al governo, un atteggiamento sottomesso, salvo ora alzare le barricate. Ma sentiamo Franceschini. Noi abbiamo ascoltato i deputati e le deputate della Lega. Sembrano scesi dalla luna. E invece sono stati, siete stati saldamente al governo negli ultimi 3 anni e saldamente incollati alle poltrone romane per 8 degli ultimi 10 anni, e quando eravate seduti su quelle poltrone non sembravate come oggi guerrieri padani, sembravate solo soldatini obbedienti. Per la Lega ha preso la parola deputata Emanuela Munerato, che ha indossato fisicamente degli abiti da operaio, rivolgendosi al governo ha detto: rappresento milioni di lavoratori disgustati da questa manovra. A favore del decreto vota il Popolo della Libertà, con un auspicio fatto dal capogruppo Cicchitto. Ascoltiamo Cicchitto. Siccome il nostro è un atteggiamento critico, ma non è un atteggiamento di sabotaggio, noi riteniamo anche che probabilmente questa ultima operazione restrittiva, ci auguriamo che sia l'ultima, in modo tale che il prossimo provvedimento del governo sia un provvedimento in funzione della crescita. Sia la manovra anche dal terzo polo, no dall'Italia dei valori di Pietro Spiega è iniqua e fa pagare ai pensionati anziché far pagare alle lobby finanziarie. E da Roma è tutto. Ultima manovra restrittiva, iniquità, insomma lo sentite anche dai toni, dalle voci, c'è movimento, c'è fermento in Parlamento tra chi si oppone in maniera esplicita e chi sostiene con i distinguo. Per Marcello Sorgi, giornalista, già direttore di diverse testate, soprattutto giornalista con una lunga conoscenza del Parlamento, racconta a Radio 24 quanto questo governo sia un corpo estraneo. Il governo è al momento un estraneo in Parlamento, cioè si percepisce, chi come noi frequenta il Parlamento, si percepisce che i parlamentari guardano a questo governo come uno sconosciuto, come un marziano, e questo ovviamente peserà sul prosieguo dei rapporti, cioè, perché pensiamo quando andranno a fare le norme sul lavoro, no? A proposito di quelle norme, di quelle riforme che sono richieste a gran voce dall'Europa, come le liberalizzazioni in parte fallite di ieri, e lì si troverà non solo contro i sindacati, pensiamo se dovessero toccare i licenziamenti, si troverà contro non solo i sindacati ma tutta la pancia del PD, che ovviamente temerà per le proprie prospettive elettorali. In sintesi, io penso che i partiti approvati alla manovra faranno un serio esame di coscienza e quindi a gennaio decideranno se è il momento di andare alle elezioni o di continuare. E penso che Monti si è predisposto in questo modo, cioè in un modo apparentemente difensivo, anzi sostanzialmente difensivo, perché Monti sa che a primavera deve fare un'altra manovra. Cioè, tutti sappiamo che questa manovra qui è una parte di quello che bisogna fare di fronte a un, leggevo ieri delle stime, un fabbisogno di oltre 70 miliardi, lui ne porta a casa 30, vuol dire che l'anno prossimo dovrà fare non una ma forse due manovre, e quindi diciamo andare adesso al passo di carica in Parlamento dicendo o così o pomi sicuramente non gli conveniva. Bisognerà vedere se i partiti, prima di fargli fare una seconda manovra, non sceglieranno di rivolgersi agli elettori. Questa dunque è la posizione che si sta formando all'interno del Parlamento, naturalmente con posizioni molto diverse, ma con in comune questa sensazione proprio di pericolo del ruolo stesso del partito. Ma dall'altra parte, anzi dall'altra parte dell'oceano, in questo caso da New York, un importante quotidiano come il New York Times invece si preoccupa della timidezza delle misure presentate in Parlamento dal neo premier Mario Monti, e afferma che queste, appunto la loro timidezza, di fatto mette a rischio l'accordo raggiunto dai leader dell'UE per salvare l'euro. Questo è un segnale dunque preoccupante, ma opposto di natura. Intanto chi continua con i suoi messaggi a invitare all'impegno, al sacrificio, al ruolo e alla responsabilità dell'Italia, il Presidente della Repubblica Napolitano. L'Italia deve far fronte a grossi rischi per la propria finanza, per la propria economia, deve riuscire a fare bene la sua parte per l'Europa e per se stessa, e quindi chiede sacrifici agli italiani di tutti i ceti sociali, anche agli italiani dei ceti meno abbienti, perché si facciano le scelte indispensabili al fine di preservare lo sviluppo della nostra economia e della nostra società in un clima di libertà e di maggiore giustizia. Punto e a capo. Lui non è malato, no, sono ammalato, quando ammassi tutte le generazioni, ma lui ha ammassato solo senegalesi. ora c'è qualcosa dentro. Questa è la mia opinione. No, questa è la... sai, qui in Italia il problema, quando massano stranieri, subito dicono lui è pazzo. Lui non è pazzo, c'è qualcosa dentro. In Italia, quando si ammazza uno straniero, si dice è un pazzo, ma questo ragazzo, questo commerciante senegalese che risponde ai microfoni di Radio 24 poche ore dopo il duplice omicidio appunto di due venditori a Firenze e il ferimento di altri tre suoi compagni, dice no, c'è qualcosa dentro. In una settimana in cui abbiamo raccontato, assistito all'assalto a un campo nomadi di Torino, questo era il fine settimana, con la denuncia di violenza poi ritrattata e poi naturalmente questa tragedia fiorentina, due episodi distanti per motivazioni, per dinamiche, per esito, che hanno in comune la violenza omicida e la xenofobia. Nell'Italia che soffre o teme la crisi, chiaramente in maniera molto diversa a seconda delle persone, si illuminano dei bersagli facili, facili bersagli di una retorica che da anni orienta il malessere verso appunto anche verso gli stranieri. Insomma, gli italiani restano brava gente, ma come già in passato, ridotte minoranze determinano spesso gli eventi di cronaca e sono eventi drammatici. Martedì 13 dicembre sarà dunque ricordato a Firenze come quello di una strage di stranieri, di africani, una strage che Cristina Carpinelli il giorno successivo racconta in questo servizio. Urlano vergogna, fascisti, piangono, in tanti, sono quasi tutti senegalesi, ma in mezzo a loro ci sono anche tanti italiani. È l'epilogo di una giornata terribile iniziata ieri in tarda mattinata. Gianluca Casseri, 50 anni, appare in piazza Dalmazia a Firenze. Si avvicina a un gruppetto di cittadini senegalesi che hanno le loro mercanzie per terra tra i banchi del mercato di un quartiere affollato. Qualcuno racconta di aver visto nascere un diverbio tra Casseri ed alcuni senegalesi. L'uomo è un militante di estrema destra e anche il fondatore di una rivista estremista, razzista, che si chiama La Soglia. È un uomo schivo e solitario, abita a Firenze da poco, ha passato il resto della sua vita in un paesino nell'Appennino toscano, in provincia di Pistoia. Quando torna in piazza, pochi minuti dopo, è armato di tutto punto, impugna una pistola, lascia la macchina in doppia fila, va verso il gruppo di mercanti senegalesi e spara. Amici e parenti delle vittime in lacrime parleranno di un dolore devastante. Piangevo la core, un dolore mai colpito, mai. Io mai visto questo dolore, mai. I poliziotti perquisiscono la casa di Gianluca Casseri e tengono sotto controllo i social network. E si apre un mondo, centinaia di messaggi di solidarietà per l'uomo che ha compiuto quel gesto folle. È un incastro che si fa fatica a ricostruire, ma secondo chi studia questi movimenti eversivi, il progetto è chiaro. Ce lo racconta Aldo Giannulli, giornalista e studioso. Notavo delle stranissime analogie sia fra il caso di Firenze e quello di Liegi dello stesso giorno, sia entrambe con il caso Breivik di quest'estate, del 22 luglio scorso. Ora, i personaggi sono tutti personaggi con precedenti che lasciano immaginare uno squilibrio, su questo non c'è dubbio. E quello che dobbiamo chiederci è se qualcuno stia indirizzando questi squilibrati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sentiamo Matteo Renzi, il sindaco della città, naturalmente. Per me un agguato razzista è per definizione un agguato folle, per cui il movente razzista e xenofobo è chiaro. Questo signore ha sparato a 5 ragazzi senegalesi uccidendone 2, non è che ha sparato a caso, e quindi il movente xenofobo e razzista è evidente. Dopodiché, come diceva giustamente lei, per una città come Firenze, dove al massimo il problema sulla sicurezza di solito è capire quante multe fanno i vigili urbani, una vicenda del genere scuote profondamente, scuote l'identità di una città, perché come dire, la domanda profonda è come è possibile che sia potuto accadere anche qua. Guardi, l'omicida, per quello che risulta ad oggi, poi naturalmente io non faccio l'investigatore e non voglio stare a mettermi una casacca che non è la mia, saranno i magistrati a doverlo verificare, ma per quello che ci riguarda il killer è arrivato, ovviamente una mente totalmente malata e folle, e nella sua lucida follia ha ucciso, per quello che ci risulta, in solitaria. Cioè non è che si è verificato quello che è accaduto altrove in altre città, dove un gruppo di persone hanno realizzato un raid, magari in altre città è andata meglio dal punto di vista delle conseguenze, ma non erano creati, diciamo, cioè, si era creata una situazione per la quale tante persone insieme cercavano di, come dire, fare una sorta di rivolta sociale. Qui è il gesto isolato di una persona. Casa Pound Firenze ha immediatamente preso le distanze, spiegando che, come dire, esprimendo il proprio cordoglio, ha chiesto un incontro alla comunità senegalese. Già nella giornata di ieri ci sono stati dei primi momenti di confronto. Io la dico così: da sindaco, quando Casa Pound festeggia e commemora i cecchini fascisti che nel giorno della liberazione, anziché venire alla manifestazione con tutto il comune, vanno per infatti loro a commemorare i cecchini fascisti, io esprimo tutta la mia rabbia e la mia disapprovazione e spiego che questi non sono i valori della mia città. E questo era dunque il sindaco di Firenze, Renzi. Naturalmente su questo tema continueremo ad approfondire nei giorni che verranno, perché come avete sentito apre e sottolinea tutta una serie di punti di domande sui movimenti che alimentano in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, queste manifestazioni esplicite, violente, drammatiche di odio razziale. Bene, adesso ci apprestiamo a cambiare pagina. Tra qualche momento avremo una pausa, ma subito dopo andiamo sulla scena internazionale. Infatti questa settimana sarà anche da ricordare come quella che mette fine ufficialmente ad anni di operazioni militari americane in Iraq. Le manifestazioni, le celebrazioni drammatiche, perché insomma si parla della fine di una guerra, sono state svolte da una parte nella stessa capitale irachena Baghdad, dall'altra dal presidente degli Stati Uniti a Fort Bragg, e proprio Obama in qualche modo amaramente ha ricordato quanto sia molto più difficile mettere fine ad una guerra che non iniziarla. Punto e a capo. È più difficile finire una guerra che cominciarla. Questa è la frase di Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, durante la cerimonia che si è svolta a Fort Bragg, in cui ha concluso formalmente la guerra americana in Iraq. Una guerra costata ai soli americani 4.500 morti, 33 gli italiani della coalizione e 30.000 feriti, mentre le stime più caute parlano di almeno 100.000 vittime tra gli iracheni. Ne ha parlato ieri mattina Mario Platero, sentiamolo. Tutto era molto normale. Questa fine della guerra è stata una fine della guerra annunciata, è stata una guerra sicuramente controversa, ma alla fine non è stato il Vietnam. Sono morti oltre 4.000 americani in Iraq, ricordiamolo, una guerra dura, una guerra difficile, giovani, una guerra che doveva finire presto e che è finita tardi. In Vietnam ne morirono oltre 40.000, fu una guerra che dilaniò il paese. Ecco, se devo fare un confronto, io non ero in America quando ci fu la fine della guerra in Vietnam, ma fare un confronto ideale fra queste due guerre, e qui si è archiviato un capitolo. La fine della guerra in Vietnam fu sentita molto di più dal punto di vista emotivo. Ecco, quel che è successo, però ci sono due cose che ti voglio raccontare, che voglio raccontare ai nostri ascoltatori. Una riguarda questo ritorno di questi soldati, di questi ragazzi che sono tornati molti apposta in sordina per fare una sorpresa di Natale, quindi c'è molto l'emotività del ritorno a Natale, e alcuni di loro, padri di giovani figli, sono andati bussando alla porta di casa per fare la sorpresa, sono entrati nelle scuole dei figli mentre i figli magari erano ancora in classe. Insomma, c'è stato davvero questo tentativo di sorpresa, c'è stata una gran quantità di storie molto commoventi di questo genere. L'altra cosa è che naturalmente non sono state archiviate le stragi. punto e a capo. Un team di ricercatori russi ha raccontato all'Independent britannico del proprio stupore nel trovare gigantesche fuoriuscite di metano dal fondo del mare Artico. Secondo gli esperti, allora, sotto il permafrost artico che si estende dalla terraferma al poco profondo mare al largo della Siberia orientale, ci sarebbero centinaia di migliaia di tonnellate di metano che si liberano nell'atmosfera, un gas 20 volte più inquinante dell'anidride carbonica. Questa notizia arriva a pochi giorni dalla conclusione di COP17, l'incontro dell'ONU a Durban sull'ambiente. Ne abbiamo parlato inizio di settimana con Luca Mercalli, climatologo, meteorologo, ospite a 24 mattina. Sentiamolo. Possiamo essere soddisfatti che non si sia chiuso con un fallimento totale, ecco, però dov'è che non funziona è che noi ci confrontiamo con le leggi fisiche che governano il mondo reale. Queste non stanno ad aspettare le decisioni degli uomini, i negoziati, gli accordi, i sotterfugi, gli sconti che ci si fa uno con l'altro. Ecco, le leggi fisiche lavorano indipendentemente da noi e noi ormai stiamo sollecitando il sistema climatico da oltre 150 anni, 200 anni, immettendo i gas a effetto serra prodotti dalla combustione del carbone, del petrolio e del gas, e gli effetti cominciamo a vederli. Il riscaldamento è in atto, i 13 anni più caldi della storia si sono tutti verificati dopo il 1996. Insomma, la scienza dice fate presto, perché è come una malattia. Non è che se il medico ti dice mettiti a dieta, dici no ma aspetta ancora un annetto perché voglio ancora godermi un po' di lasagna al forno e poi ci penso il prossimo anno, via, la dieta la comincio fra un anno. E intanto la malattia va avanti, non aspetta te, e qui è la stessa cosa. Continua a calare la popolarità del premier Vladimir Putin dopo il controverso voto legislativo del 4 dicembre. Secondo l'ultimo sondaggio demoscopico, se le presidenziali si svolgessero domani, il capo del governo otterrebbe il 42% dei voti, senza dunque passare al primo turno, cosa cui Putin non è abituato. Ma allora sulla reazione del primo ministro che intende tornare presidente, sentiamo il servizio di Antonella Scott. Se ci sarà cambiamento in Russia, sarà molto graduale. La risposta di Vladimir Putin alle proteste nate dalle elezioni del 4 dicembre è una lunghissima maratona televisiva in cui per tradizione il premier risponde a decine di domande da ogni parte del paese. Una spolverata di concessioni e la richiesta di cambiamenti ha caratterizzato l'edizione di quest'anno, ma nella sostanza Putin non sembra aver assorbito molto di più da quello che sta avvenendo nel paese. Ha sorriso ai dimostranti dicendo che se il frutto del regime putiniano è stato far crescere giovani così intelligenti e attivi, questo non può che fargli piacere. Ha parlato di impegno per il rafforzamento di istituzioni democratiche, però ha avvertito l'opposizione che una destabilizzazione simile alla rivoluzione arancione in Ucraina non sarà tollerata, e nel suo consueto stile cameratesco ha paragonato i fiocchi bianchi, simbolo della protesta, a dei preservativi. Nessun riconteggio del voto, ha fatto capire Putin, proponendo però per le presidenziali di installare nei seggi telecamere a ciclo continuo, in modo che ognuno possa monitorare su internet la correttezza del voto di marzo. Che Putin, proteste o no, rimane certo di vincere. Antonella Scott, Radio 24, sulle 24 ore. E infine, per concludere questa nostra pagina internazionale, anche se in realtà ne abbiamo notizie molto ridotte e frammentarie, vogliamo ricordare anche questa settimana ciò che accade in Siria. Ieri sarebbero stati oltre 200.000 i manifestanti disarmati che hanno riunito e hanno sfilato a Homs, che è la terza città della Siria, l'epicentro della protesta e della repressione. Sempre secondo le fonti, appunto, dell'opposizione, che come sapete utilizzano intensamente i mezzi tecnologici, che sia fondamentalmente, diciamo, la piattaforma internet, per compensare anche il divieto di accesso alla stampa internazionale. Dicevo, sempre secondo queste fonti sarebbero almeno i 14 i siriani, di cui 3 donne, uccise dalle forze fedeli al presidente Bashar al-Assad solo nella giornata di ieri. Questo bilancio dettagliato e aggiornato si legge sul sito internet del Centro di Documentazioni delle Violazioni in Siria, un sito legato ovviamente ai comitati di coordinamento internazionali per la pace che opera in Siria da molti mesi a sostegno delle proteste. Punto e a capo. Ultimi minuti con Punto a Capo e come vi ho annunciato parliamo di cinema. Questo è un weekend importante per il box office, il weekend prenatalizio, quello probabilmente più ricco tra i più ricchi della stagione. Ecco le uscite principali, sono Sherlock Holmes 2, Le Idi di Marzo di George Clooney e Finalmente la Felicità di e con Leonardo Pieraccioni. Adesso io non mi aspetto nulla, ma ormai è scaramanzia, capito? In realtà dentro il mio cuoricino qualcosa ho visto e devo dire che in questo Finalmente la Felicità ci siamo sbizzarriti proprio con la sindrome del cabarettista, ci siamo lasciati andare a delle scene che ho già visto funzionare molto in sala, per cui mi auguro in realtà poi alla fine che sia un film che faccia molto divertire, che sottolinei il talento straordinario secondo me di Rocco Papaleo, che fortunatamente da qualche anno a questa parte ce ne siamo veramente accorti che è troppo forte, che sottolinei questo debutto di Ariadna che c'ha questo sguardo che sicuramente arriva, e era la protagonista che io avevo visto ai provini, tra i primi provini. Mi sembrava un pochino giovane rispetto a quella che avrei voluto che interpretasse la parte di una modella, di un'attrice che ha 31 anni, il paradosso specialmente per quanto riguarda il fatto di fare l'attrice è che sembrano già vecchie e che debbano trovare un'altra strada, e se non altro quella che li poteva proporre il mio personaggio, che è un professore di fagotto e controfagotto, poteva essere un'alternativa valida alla bellezza invece superficiale nel film interpretata da Chago. Tu hai detto la gente dice arriva il buonista, sì. Però è un momento difficile per l'Italia, tu cosa speri per questo film in questo momento difficile? Dal punto di vista del mercato, tanti punti di vista. Potesse un film inficiare sul mercato e sul vero umore di chi ha problemi, si sarebbe veramente benedetti dal Signore. Noi siamo solamente gli saltimbanchi che, come al circo, possono strappare una risata e far dimenticare per quell'ora e mezzo i problemi, ma non risolverli. Però non è poco, perché è un grande premio quando uno ti dice, sai che c'ho un momento di grande giramento di scatole, però sono andato a vedere i tuoi film e me ne sono dimenticato. È una terapia, cioè il grande Charlie Chaplin diceva che la giornata più inutile è una giornata dove non si è riso. Terapia e soddisfazione dunque nell'auspicio di Leonardo Pieraccioni, ma questa è anche la settimana del Cinepanettone. Esce in 750 copie, Vacanze di Natale a Cortina, il film natalizio targato De Laurentiis. Lo scorso anno si era lasciato sfuggire il primato al botteghino, ora punta sul ritorno alle origini. Allora Marta Cagnola, tra i protagonisti ha sentito anche Dario Bandiera, con il quale ha parlato anche di come appunto il pubblico è portato a prendere un film di questo tipo in un momento di crisi. Sentiamolo. Ma io spero che la prenda bene, anche perché questo film di Natale, insomma, è rispetto agli altri anni appunto cambiato, uno perché appunto è tornato in Italia, a Cortina, alle origini e tutto. Poi c'è stato il cambiamento del cast al completo, tranne appunto De Sica, il cast completamente rinnovato, la sceneggiatura riscritta anche dai fratelli Manzina insieme a Riccardo Cassini, che tra l'altro è uno degli autori di Fiorello. Insomma, ci sono un sacco di novità. Sì, l'unico momento per evadere appunto nelle vacanze di Natale, quando sono tutti in vacanza, uno si passa quelle due ore al cinema, sai, spensierate, visto che appunto con la crisi siamo tutti rovinati. E infine Ligabue, almeno per il cinema, Ligabue che batte un nuovo record. Campovolo, il film in 3D, a 8 giorni dall'uscita, è il film concerto più visto di sempre in Italia. Il regista del concerto, Cristian Biondani, e del film, Marco Salom. a un certo punto avevo cominciato a provare a sentire anche Maiorito, aveva un po' idea, anche tuttora il 3D. Io ho detto dai che la proviamo, proviamo a fare il campovolo 3D, tanto più di così non si potrebbe rischiare. Quando io ho cominciato a fare i Liga degli anni scorsi, il primo anno io non ero così convinto, finché poi non mi sono ritrovato in sala, in mezzo a tutti quanti i ragazzi che saltavano in piedi, però questo è un modo differente comunque di fruire un concerto, cioè, però diciamo che anche il 3D secondo me è il modo per arrivare su un palco, capire che emozioni può vivere Luciano, insomma, da quel posto lì, da quel punto di vista lì. Sicuramente questo è un prodotto originale, si trova tanta musica, però anche divertimento, e si vede un Luciano Ligabue come non lo si è mai visto, con un lato molto ironico e molto simpatico. Grazie a Marta Cagnola, e adesso invece un saluto a Carlo Genta. Ciao, ciao Carlo, ciao, buongiorno. Buongiorno Carlo. Tra Champions e campionato a Nyon, dunque Svizzera, gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta, sì, della Champions League, che ricordiamolo interessa Milan, Inter, Napoli. Allora, com'è andata? Ma è andata, insomma, non benissimo per il Napoli, però guarda, volevo partire dalla cosa più curiosa di questo sorteggio. Curiosità. Mi sono messo a ridere come un matto quando il Lione, squadra francese, quindi va bene, poi sai, italiani siamo abituati a fare della dietrologia, vicina a Michel Platini, Lione che si è qualificato con un biscotto in piena regola, quell'1-7 sul campo della Dinamo Zagabria con gli occhiolini, con vari ammiccamenti tra le due squadre, Lione che doveva fare 7 gol alla fine li ha fatti in mezz'ora, si è qualificato. È forte dunque. Mica tanto, e ha preso, chi ha preso? La Cenerentola assoluta, forse anche la più bella favola di questa Champions League, cioè i ciprioti dell'Apoel Nicosia, per la prima volta nella loro storia, ovviamente, agli ottavi di Champions League, prima pallina, pam, Lione, Apoel, Nicosia. Addirittura, e quindi la festa continua. Sospettoso, sì. Carlo Genta, quindi la festa continua, sì. Oppure un anno baciato dalla fortuna. Ci hanno insegnato i nostri governanti che a pensare male si fa peccato, eccetera, per eccetera. Bacco, citazioni dotte. C'è un'altra francese invece per l'Inter qui. Insomma, è un po' meno curioso, c'è il Marsiglia che di solito fa male alle squadre italiane, luci comprese, e anche l'Inter ne sa qualcosa perché dal Marsiglia è stata anche eliminata con un doppio 0-1, però il Marsiglia di questa edizione non mi sembra una squadra irresistibile. D'altra parte l'Inter è l'unica delle tre ad aver vinto il suo girone, anche se onestamente era il girone più semplice che c'era. E dunque ha capitalizzato questa vittoria nel girone pescando bene, pescando un Marsiglia che può essere eliminato, gara di ritorno tra l'altro a San Siro. Invece per le altre due, doppia gita a Londra, sfalcata di 7 giorni, perché entrambe giocheranno l'andata in casa e il ritorno in trasferta, però andranno a Londra sia il Milan con l'Arsenal, un Arsenal che non è all'altezza delle ultime edizioni, che a momenti viene eliminato dall'Udinese, che è andata ad un soffio dall'eliminare i Gunners nel preliminare. Poi la squadra di Wenger è riuscita comunque a passare il turno, tra l'altro era nel girone con il Marsiglia, quindi per le due milanesi ci sono due squadre che provengono dallo stesso girone della prima fase. È comunque sempre una squadra che, insomma, che ci ha messo in difficoltà, che quasi sempre ha eliminato le nostre squadre, quindi mai fidarsi. Per il Napoli, guarda, il mio pensiero è che reduce dal girone più difficile nettamente di tutta la Champions League, con grandissime avversarie, prosegue su questa striscia. Che male c'è? Assolutamente, tanto più che, come dire, sulla carta doveva essere già sconfitta appunto dal Monaco, da Mancini e abbiamo visto com'è andata. Magari al Villarreal. 30 secondi sul fine settimana di campionato. Adesso comincia il Tour de Force, inizia oggi per la Serie A con 3 partite, 16ª giornata alle 18, Chievo-Cagliari, midollo della nostra Serie A, e poi in serata Fiorentina-Atalanta, e soprattutto c'è il Milan che continua ad inseguire il primato e oggi ospita il Siena, poi domani le altre partite, e in settimana tra martedì e mercoledì c'è il turno infrasettimanale che si legge come prima giornata, quella che verrà recuperata, vi ricorderete, dopo lo sciopero estivo. Ebbene, come da tabellone si recupera nel weekend, quindi prepariamoci a 4 giorni al solito zeppi di pallone, a cominciare dal pomeriggio. Gigi, grazie a Carlo Genta. Con Carlo Genta arriviamo alla conclusione, abbiamo aperto questo appuntamento ricordando, e l'abbiamo fatto con piacere, la buona notizia della liberazione dopo 4 mesi di prigionia in Sudan di Francesco Azzarà. Vogliamo concludere questa trasmissione ricordando che invece come dire, speriamo di poter avere una notizia identica e presto per Rossella Urru, che invece è stata rapita in settembre in Algeria. Bene, siamo davvero arrivati alla conclusione. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia e un saluto da parte mia. L'appuntamento adesso con GR24, subito dopo il consueto appuntamento del sabato con l'Europa. Buon fine settimana a tutti voi.